Buongiorno bambini, allora. Buongiorno. Oggi? Allora, oggi, visto che è il momento della ruota, a questo proposito noi dobbiamo fare una comunicazione importante. Ma allora, visto che non ci fate mai girare la ruota. Ma no, ogni tanto la girate. Questa, no, lasciamo stare. Questa volta o ci fate girare la ruota, sì. O a me o a Ioris. Sì. E cambiandum, addendum, eidem. O giriamo la ruota noi, o noi facciamo lo sciopero del fiato. Cioè non respiriamo più per tutta la durata della trasmissione. Sì, 10 minuti. Poi a me non piacciono i ricatti. Cominciate quindi. Pure che tanto la ruota la giro io. Oh, P di Pasqua, ma guarda, argomento perfetto. Ma lasciamo stare quello che suggerisce sempre il grillo, perché Pasqua non c'entra niente con adesso. L'ho fatto apposta, il collegamento, la ruotona, il grillo, mai una volta che vanno a bere... guarda che i bambini, P di Pasqua, piace? Vero? Cosa? Ma molla lì, ma respira. Oh. È tutto viola, ma cos'è sta cosa? Allora, facciamo P di Pasqua, bambini. La Pasqua va bene, c'è l'uovo di Pasqua, il fiocchettato, la sorpresa, il cioccolato. Giusto, la Pasqua alta, la Pasqua bassa. La Pasqua a tavola. Sì, argomento molto giornalistico, molto sull'attualità. Ma vabbè, ma invece... molto semi-giornalistico. Allora, vabbè, fai tu. P di? P di prigione. Abbiamo appena preso una multa, ragazzi. Chi? In Italia, noi italiani, per 100.000 euro per 7 detenuti fa 700.000 euro che lo Stato italiano deve pagare. Perché? È una multa dell'Unione Europea perché le carceri sono sovraffollate, le condizioni non vanno bene, eccetera, eccetera. Vabbè, ma quindi, dobbiamo ragazzi... parlarne noi. C'è sempre Pannella che ne parla. Lascia che lo faccia lui, no? Però Pannella non si può parlare di Pannella. Perché? Siamo in par condicio. Canzone. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Proprio tu in prigione, perché ti servo da lezione. Ma questa non è la PFM. No, questo è Edoardo Bennato. Vabbè, Napoletano. Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato. Allora, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione. Sì, proprio tu in prigione, serva da lezione. E tu entri in prigione? No, ma quale prigione? Oh, io non ho fatto niente. Appunto. Tu che hai calcolato, tu che hai provveduto, tu che non hai mai sgarrato, tu che alla giustizia ci hai sempre creduto. Allora, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Sì, proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione. Sempre sul conto della gente e non ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, in prigione, e che ti serve la lezione. In prigione, in prigione, lasciatemi, anche tu, no, prigione. C'è l'errore, io sto in giudice, lasciatemi, no, anche lasciatemi, tu, c'è l'errore. Vedi, K, questo refrain così in prigione, col sì. blues, alla fine anche i bambini diventano dei giustizialisti. Senza pietà, quel che è giusto è giusto. Cioè che Ioris vada in prigione per non si sa quale motivo. C'è i suoi motivi, no? C'ha i suoi motivi. E tu hai tutto il diritto di andare a verificare. Tu hai già sentito parlare di Kafka, bambino Ioris? No. Che dici, il processo, uno che è stato arrestato. Adesso Kafka, la prigione, siamo all'asilo, drago. Allora, bambini, raccontateci quello che per voi è la prigione, quello che voi sapete della prigione. Detto. Prigione kafkiana. Cioè, no, lascia stare. Ma noi praticamente l'asilo siamo in una prigione. Infatti. Allora. Ma vabbè, ma... Abbiamo interessante. Sì. State a sentire, abbiamo la nostra divisa. Sì, giusto. L'armadietto. Sì. Non possiamo uscire. Lucchettino, c'è la mensa. Sì. C'è la, l'ora d'aria nel cortile. Vabbè, ora c'è la ricreazione. Se osi uscire durante le ore, non ti fanno uscire con la scusa che sei un minore? Sì, e se non è prigione questa? Se telefoni a casa. Ci sono i secondini? Ma chi? Quali i guardiani? E chi? Saremo noi. Il suor Dentona, no? Ah, vabbè. Il capo dei guardiani, poi ci sono le faine che vanno in giro a controllare. Piacerebbe essere una faina. C'è il bidello che è pure un... Quindi, esatto, qui è una prigione. Quindi noi abbiamo pensato anche io noi scapperemo di qui. Sì. Avremo anche in mente il piano. Ah, il piano dell'evasione dalla prigione. Ah, questo a proposito, avremo bisogno di un vostro aiuto. Se noi ci fate entrare di soppiatto, di nascosto, degli oggetti che ci servono per organizzare la fuga. Capito? Vabbè, allora, sarebbero allora, quali oggetti? Abbiamo già quella lista. Allora, è facile trovarli. Ci servono due seghetti. Per le sbarre, no? Adesso, quindi seghetti per metallo, Drago, per metallo. Scrivi per metallo. La lima, la famosa lima. No, un seghetto. Seghetti invisibili. Invisibili. Nascondibili. Sì, d'accordo. Picco, due sì. Maschere. Due maschere, facciamo. Facciamo una da Topolino e una da Tre Porcellini. No, ma come fai? Tre Porcellini, metto quella di Topolino. Ma come le maschere? Cosa serve? Per nascondersi, no? Ma dove? Per la privacy. Ma come la privacy? Ma vabbè, cosa fai? Scappi con la faccia a testa alta. No, io non la metto la maschera, Albert. Allora, vedi. Tu vai senza maschera, così ti beccano subito. Vabbè, due allora, maschere. Quindi che è finita. Allora, sì. Ci serve ai segreti biondetti una corda. La corda per carsi. Una fune. Sì. Sì. I guanti. I guanti per bravo, Fiora. Sì, tu sei pratico. Per la fune. Sì, e la PlayStation. PlayStation dopo al motel. Quando arriviamo al motel c'è la PlayStation. Ma quale motel? Allora, ma come ci andate in motel? Poi la fune, l'ho detto, un pacchetto di sigarette. Per la tensione, prima di scappare. Noi non facciamo due tiri di sigaretta. Elettronica, Ah, ecco, bravo. Poi, ovviamente, quando usciamo, una volta calati, abbiamo bisogno di un mezzo per andarsene via. Giusto. Eravamo indecisi fra un Lamborghini o una Gran Punto. Ma come? Sembra una Gran due Punto macchine... è spaziosa. Va bene, con un autista, perché noi, essendo minori... Ma come l'autista? Va bene. Privi di patente, non possiamo. No, Albert, ce l'ho io la patente. Ma che patente? Sei minore, come fai a guidare? Poi ci beccano solo, ci beccano nella patente e ci fregano. E quindi capito? Voi con la Gran Punto... Gran Punto è l'autista, comprendo. E dove andate? Allora, lui deve essere già informato di tutto. Sì. Prima fermata, il McDrive più vicino. Vabbè, ma certo, un piano di evasione che usciamo, sicuramente usciamo di giuro, perché funziona. Noi scappiamo alle 7 di sera, saltiamo la mensa e quando abbiamo finito abbiamo una fame terrificante, dobbiamo mangiare. Il McDrive. Quindi necessitas anche pecuniam. No, pecuniam. Che voi avremo bisogno di 10 euro, se non è troppo, in tagli da uno, in tagli da un euro. Quindi fa 10 monete, è un problema grosso. 10 monetine da un euro. Oppure 20 da 50 centesimi. Dopo la spanzata al McDrive, andremo al Motel K. Perché è lì appena fuori Milano, non ci vedono. E lì, quello è il momento della PlayStation. Ah, ecco, quindi dobbiamo far trovare in albergo anche allora, una PlayStation. In albergo, PlayStation con due o tre giochi. Io ho segnato due seghetti, certo. Due mascherine, una Topolino e una Tre Porcellini. Sì. Esatto. Una fune. Una fune. Una Gran Punto con autista. Gran Punto con autista. Patentato, Patentato. E... PlayStation nel Motel K. No, sulla... 10 euro. 10 euro, se no è dimenticato i 10 euro, vedi? Io facevo finta di averli dimenticati. Beh, complimenti, Cioè, vuol dire, noi gli raccontiamo la prigione e il risultato. Il pacchetto di sigarette. Il pacchetto di sigarette elettroniche. Ma non è un pacchetto. Ma è una. Non è come? Elettroniche? Sì, ma è una sola. Una per una. Allora, no, due. Ha due pacchetti di sigarette elettroniche. Una per me. Volta tu fumi? Sì, sì. Fumo anche lui. Quindi due, va bene. Sì, perché sennò. E sennò se non si fuma, cioè quando scappi di ci guardiamo in faccia, ce l'abbiamo fatta, senti l'aria della libertà. E respiri. E ci facciamo, capito? Una bella boccata. Oh, chi è? Adesso! I carabinieri, la polizia, i cani! C'è la gente! Polizia, non abbiamo fatto niente! Tu stai tranquillo, no? No, io mi scappo, vieni con me! Ma che scappi? Tu stai qua con me, parlo io con la polizia, carabinieri. Tu vai sempre la calma. Madonna, stai arrivando qua! No, qui stanno arrivando i cani, perché con la polizia ci parlo io, con i cani che ci parla. Appunti, col cane, Alberto! Ma tu hai portato la polpetta avvelenata? No, hai detto che la portavi tu, che tua madre fa le polpette avvelenate! Un programma di P di prigione. Abbiamo imparato che la cosa più importante è avere sempre con sé la P di polpetta avvelenata. A, P, C, D, D.